قد ما يوصفك إنسان بكل كلامك ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسانك لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا أخي أنت لم تمت أخي عشت بنص يا أخي لن تختفي يا أخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا أخي تبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارض تناديكم على الايادي بالايادي بساعد مع حم المول قد مطابق بالصوت عبورة في السكوت وصاحب علم الصوت وناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب وقم بغفلة تمل قدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى بالحق رمز إرادة الشعب احكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة احكي في توريو احنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض e 19 e 40 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default e mentre mi arriva la sigla di sottofondo chiudiamo la sigla di sottofondo andiamo ora in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata questa settimana con il nostro consueto GR. Volevamo riprendere la comunicazione con il collegamento che abbiamo interrotto l'altra settimana con Dino, ma purtroppo non ci potrà essere. Noi gli facciamo, tutta la redazione gli fa un grande in bocca al lupo. Quindi ricordiamo velocemente i contatti della radio, c'è cioè il nostro sito www.radiodefault.it o altrimenti per intervenire in diretta o fare domande eccetera eccetera c'è il nostro account Skype che è radio.default oppure il nostro account Facebook che è Radio Default. E quindi noi cominciamo con questo GR con gli aggiornamenti delle ultime due settimane iniziamo con proprio una notizia, un paio di notizie riguardano tutta la Palestina. La prima è che il Fronte Popolare dà il suo ennesimo no alla normalizzazione con l'entità sionista. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha duramente condannato la partecipazione di alcuni politici palestinesi ad alcune conferenze con i membri della Knesset. La normalizzazione con l'occupazione è inaccettabile, dichiara Khalid Jarrar, dell'ufficio politico del fronte. La partecipazione a questi meeting deve essere cancellata perché è avversata dall'intero popolo palestinese. L'incontro in questione si è tenuto l'8 luglio ed era una conferenza sulla cosiddetta soluzione dei due stati, indetta dal Partito Laburista e da altre forze politiche sioniste. E poi migliaia manifestano contro la seconda Nakba. Lunedì 15 migliaia di palestinesi, tutta la Palestina è stata scossa dalle manifestazioni contro il piano Prawer, la legge sionista che vorrebbe demolire circa 40 villaggi nel deserto del Negev, portando alla deportazione di circa 70.000 persone. La manifestazione più imponente si è tenuta nella città di Beersheba, in corrispondenza con lo sciopero generale dei palestinesi che vivono nell'entità sionista. Il corteo, partito dall'Università Ben Gurion, è stato caricato quando i dimostranti hanno bloccato una delle arterie principali della città. Si segnalano 14 arrestati e scontri anche ad Al-Quds, Gerusalemme. Altre manifestazioni sono tenute in Galilea, ad Haifa, Jaffa, Betlemme, Ramallah e Gaza City. E passiamo invece agli aggiornamenti da Gerusalemme, dove gli abitanti di Abu Dis abbattono il muro di segregazione. Martedì 9 luglio gli abitanti del villaggio di Abu Dis hanno abbattuto un pezzo del muro di segregazione che li separa dal settore orientale di Al-Quds. In seguito sono stati arrestati dalla polizia di frontiera. Abu Dis dista solo un chilometro da Gerusalemme, ma il muro di segregazione li costa una traversata di 12 chilometri per raggiungere la città. E sempre dal 2000 da Gerusalemme, nel 2013 l'occupazione arresta i bambini gerusalemitani. Hanna Hissa, un professore di diritto internazionale, ha dichiarato che dall'inizio del 2013 l'entità sionista ha arrestato più di 170 bambini residenti a Gerusalemme. Hissa ha dichiarato che le forze di occupazione commettono atti di tortura psicologica e fisica, oltre ad impedirgli l'accesso all'educazione scolastica come conseguenza dei lunghi periodi di arresti domiciliari. E passiamo alla West Bank, dove abbiamo degli aggiornamenti contro la Pizzarotti. Sì, come diceva, aveva annunciato il compagno, c'è un'associazione per i diritti umani, ALAC, che ha denunciato come responsabile per crimini di guerra la ditta Pizzarotti, che già negli anni passati era stata al centro proprio delle mobilitazioni del movimento di solidarietà italiano per denunciare proprio i stretti rapporti economici che interagivano tra questa ditta di Parma e lo Stato israeliano. Quindi andiamo alla notizia. L'Organizzazione Palestinese per i Diritti Umani, ALAC, ha pubblicato un parere legale sul coinvolgimento della Pizzarotti e Company, società per azione, nella costruzione del treno ad alta velocità Tel Aviv-Gerusalemme che attraversa i territori palestinesi occupati. L'Italia, ai sensi del diritto internazionale, ha il dovere di intervenire. Secondo l'opinione legale di ALAC, nota organizzazione palestinese impegnata per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, ci sono fondati motivi per determinare che la Pizzarotti, società per azioni, possa essere ritenuta responsabile di atti che possono ammontare a gravi violazioni del diritto internazionale, come i crimini di guerra, di saccheggio e di distruzione e di appropriazione di beni, sia ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra che dello Statuto della Corte Penale Internazionale. L'impresa Pizzarotti di Parma ha infatti stipulato un contratto con le Ferrovie israeliane per l'escavazione di due tunnel destinati al passaggio della nuova linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Tel Aviv e Gerusalemme attraverso per ben 6,5 km dei territori palestinesi occupati. Viene rilevato come la nuova infrastruttura di fatto danneggerà gli interessi della popolazione locale palestinese, la quale perderà una parte considerevole della propria terra. Da sottolineare che Israele ha già confiscato gran parte delle terre dei villaggi palestinesi di Beit Iska e Beit Surik, i cui abitanti sono per lo più rifugiati del 1948, per la costruzione degli insediamenti e del muro. ALAC evidenzia che Pizzarotti ha dimostrato di essere perfettamente consapevole del carattere problematico del progetto, secondo il diritto internazionale, tant'è vero che la Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria di Stato della Germania, si è ritirata dal progetto proprio a causa del suo carattere problematico dal punto di vista del diritto internazionale. ALAC afferma che l'Italia, quale paese facente parte della Corte Penale Internazionale, ha il diritto di esercitare la giurisdizione penale per quanto riguarda azioni compiute dai suoi cittadini, in questo caso i membri del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti di alto livello della Pizzarotti, che possono che possono ammontare a crimini di competenza della Corte. In aggiunta, l'AC evidenza che tutti gli Stati sottostanno all'obbligo derivante dal diritto internazionale consuetudinario di indagare e perseguitare i responsabili delle infrazioni gravi delle convenzioni di Ginevra. E vi lasciamo a uno stacco musicale, vi lasciamo con Yas, un gruppo pop libanese che dall'album Arabology cantano Aziza, mia cara. يا عزيزة اطلعي لا ما اقدر شي حبيبتي شرفي لا ما اقدر شي وطلعت يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة تريحي لا ما اقدر شي حبيبتي تلحلحي لا ما اقدر شي وسمعت يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدرشي حبيبتي قربي لا ما اقدرشي فرشنا يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة اقلعي لا ما اقدرشي حبيبتي تجرأي لا مش ممكن صلاحنا يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدرشي sempre su Radio Cufia, sempre con il giornale radio delle... si sente basso? Ecco, ora si sente bene. E torniamo sempre in onda con le gli aggiornamenti dalla Palestina, dalla West Bank specialmente, dove manifestanti mascherati sfilano a Ramallah per la terza intifada. Alcuni manifestanti hanno marciato mascherati per le strade di Ramallah, lanciando slogan a favore della terza intifada e per dare un nuovo lustro alla causa palestinese. Il gruppo, che si chiama Tamarrud, ha chiesto alle fazioni palestinesi di riprendere le attività militari e di unirsi nella resistenza contro l'occupazione. Non è chiaro se il gruppo sia affiliato al movimento egiziano Tamarrud, Rivolta, una campagna dal basso che ha organizzato delle proteste che hanno portato alla destituzione del presidente egiziano Mohamed Morsi. E poi coloni devastano delle terre agricole. I coloni dell'insediamento illegale di Beit Ahillit, costruito su terra palestinese ad ovest di Bethlehem, meglio conosciuta come Betlemme, hanno inondato i terreni agricoli del villaggio di Wadi Fukin con le acque nere delle fogne. Il terreno, circa 100 dunum, quindi 100 km quadrati, non è più coltivabile a causa delle acque inquinanti. E passiamo alla diplomazia internazionale con gli USA che minacciano di tagliare i fondi all'ANP. Il segretario di Stato statunitense John Kerry ha dichiarato che se l'autorità nazionale palestinese continuerà a legare la ripresa dei cosiddetti negoziati ad alcune precondizioni, gli Stati Uniti cesseranno ogni aiuto finanziario. L'ANP ha sempre dichiarato che la ripresa del dialogo con l'occupante potrà avvenire solo se il governo di Tel Aviv libererà i prigionieri politici, cesserà la colonizzazione e si ritirerà sui confini del 67. Kerry ha aggiunto che Abu Mazen dovrà riconoscere l'entità sionista come uno stato ebraico. E poi andiamo a Nablus, dove i coloni sradicano 1150 olivi. Il funzionario dell'ANP incaricato di seguire gli iter di colonizzazione, Ghassan Daglas, ha dichiarato che i coloni sionisti hanno tagliato 1150 alberi di olivo nella parte orientale della provincia di Nablus. Gli abitanti di Awarta, un villaggio vicino alla colonia illegale di Itamar, il 10 luglio si sono svegliati sentendo rumori di seghe elettriche e quando sono giunti ai loro campi li hanno trovati distrutti. Gli oliveti appartenevano a 25 famiglie e costituivano la loro principale fonte di reddito. E passiamo ora invece alla striscia di Gaza, che è rimasta isolata a causa della crisi egiziana. I recenti sommovimenti in Egitto, che hanno portato alla destituzione del presidente egiziano Mohamed Morsi, si stanno riflettendo sulla striscia di Gaza. Il nuovo governo ha infatti chiuso il valico di Rafah, aprendolo solo a singhiozzo e per i casi umanitari. La chiusura è peggiore di quella in corso a causa delle restrizioni imposte sull'utilizzo dei tunnel sotterranei che facevano giungere di contrabbando i beni essenziali per la vita degli 1,7 milioni di abitanti della striscia. Il governo locale, legato a Hamas, ha dichiarato che circa il 90% dei progetti infrastrutturali sono stati sospesi a causa della mancanza di cemento e di altri materiali edili. In un comunicato, il Palestinian Center for Human Rights chiede al governo egiziano di riaprire il valico di Rafah e alla comunità internazionale di ricordare all'occupante sionista che è suo compito riaprire i valichi chiusi con il suo territorio. E ora vi lasciamo a un altro stacco, prima di leggere l'ultima fase del GR, vi lasciamo con Ziad Rabbani, cantante siriano, che canta Enshala Mabuchi. خبرني انه جار وشو دبر ومعقول هالشي بيحكي بيني شوتني طالع لي جارو هيدا جارو هذا الجارو ما بفهم شي E riprendiamo, riprende il nostro GR di aggiornamento. Ci eravamo lasciati a Gaza, nella striscia di Gaza, e ci ritroviamo all'interno dell'entità sionista, dove ci sono stati dei ritrovamenti archeologici egizi in Galilea. Un gruppo di archeologi ha rinvenuto a Tel Azor, in Galilea, frammenti di una sfinge egizia. La statua monumentale, la prima di origine egizia rinvenuta nel Levante, è dedicata al faraone Micerino, vissuto all'incirca nel 2500 a.C. e costruttori di una delle tre piramidi di Giza. E passiamo invece al fronte delle carceri, dove Barghouti è in condizioni critiche. L'avvocato di Abdullah Barghouti, Fawaz Shalloudi, ha dichiarato che il suo assistito è in condizioni critiche di salute, con problemi al fegato e aritmie cardiache derivanti dal suo sciopero della fame. Barghouti, condannato a 67 anni ergastoli e 2500 anni di carcere, la pena massima mai emessa da un tribunale dell'occupazione, è uno dei cinque detenuti di nazionalità giordana che richiedono il rispetto degli accordi internazionali e di scontare la propria pena nel regno hascemita. E poi c'è la nutrizione forzata degli scioperanti. Il Palestinian Center for Human Rights ha lanciato un allarme contro una proposta di legge che prevede la nutrizione forzata. Ha lanciato un allarme contro una proposta di legge che prevede la nutrizione forzata dei prigionieri in sciopero della fame. La nutrizione forzata costituisce un pericolo per le vite dei detenuti ed è un segnale di come le autorità carcerarie sioniste siano incapaci di trattare con loro. Nella storia del movimento dei detenuti palestinesi, ben tre sono stati martiri causati dalla nutrizione forzata, che oltre a essere un rischio per la salute è anche una violazione dei diritti umani internazionali. E l'ultima notizia dalle carceri, Sadat è stato trasferito a Shatta. La società dei prigionieri palestinesi ha dichiarato che Ahmad Sadat è stato improvvisamente trasferito dal carcere di Adarim a quello di Shatta. Sadat è il segretario del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina e membro del Consiglio Legislativo Palestinese. Nel 2006 venne rapito dal carcere di Gerico e condannato nel 2008 a 30 anni di carcere per l'eliminazione del ministro sionista Zevi, in risposta all'omicidio del rivoluzionario palestinese Abu Ali Mustafa. E vi lasciamo all'ultimo stacco musicale e poi finiamo il GR. Vi lasciamo con i Dem, il gruppo rap palestinese che cantano Ya Saidati. Ya Saidati Khudini, Khudini, Ya Saidati. عيني سجنتها وعيني حكمتها بحكم البراء وهي حكمتني بالإعدام ولسه ما تبدلنا الأسمامات قالت لي سلام وأنا قلت لها حرب جربت إنه ما يتخلى قلت لها عن الضرب اللي قلبها بقلبي ملا بس هي كانت مثل سفينة اللي فتحت شراعها وأنا كنت مثل عاصفة اللي جربت ترجعها للأرض ومثل أكون مالك جاذبية اتضل علي ولا تطلع بدها بدلة فضائية بس هاي أمي اللي كنت عارف إنه ما راح تتحقق إنه جوابها كان لا بس الجواب ما كان يتصدق وضلتني على الحال على نفس الموال مرت على طرق احتيال بس برضه ما كان فعال ولا هيك قررت إني أنسحب بس صررت على رأيي ما أنسحب إلا لما هي تنسحب معاي خديني الفيروس اللي في نص قلبي قلبي خربت في كل شعوري وبس خلت لي الحب وورد صنعته كله كله لا ما خلت لي شي منه منه عم بمتهاني بس لسه بدي اياكي بدي اياكي زي بس ومالي بدي اكره بدي اياكي زي ما فرصيني بدي ارضه الناس اللي حواليكي بنوزع احلى صوره بفتشوا على قصه حب معاكي بس انا انا انا انا بدي اسطوره ولك اموره نفس جنبك صورة انتي مش عارفة انك انتي ساكنة قلبي وانا زي حرامي مستنيك تلفي عشان اسرى منك نظرة نظرة ظهوري توفيك تبار وتتبل العطور جمت من ريحتها تشتل يلي عيوني تشبرنا نسأل على قلبك اللي علينا يقل أنا كل ما أشوفك بحتار بحالي مش بشر عادي مخلوقة من حبر نظر قباني سكنت أقلامي اختلت ألحاني سوت حياتي روز نامي فيها تنت بتقلب كل أيامي منتي جنبي ولا مش جنبي عندي ولا مش عندي ضلي منظر فني الرومانسي بليلي انت ما حقيقي قبل القمر الصناعي شفت الدنيا تدور حواليك يا عينيكي نادتني شفايفك رمتني انت قرية جميلة ساكنة جنبي مناخك حر كلها ضلي بباطن قلبي ولما فرط احاسيسي قمت هجرتك يا بدوئك عن الحب بصومخ على قلبك اللي زيك انت فرعون مدفون ما اله خارطة حتى لو ما عرفت اني قلقاه انا اشكرك سيدتي على اروع مغامرة خديني من ليلي لنور عينيكي احميني من ظلامي انتي شمسي من ورا غيمي يا سيدتي خديني لنور عينيكي احميني من ظلامي كل عليه من ورا غيمي خديني من ليلي لنور عينيكي احميني من ظلامي انتي شمسي Vediamo adesso una notizia sul divieto che l'Unione Europea ha messo agli Stati membri sui rapporti con le colonie israeliane. Sembra una notizia perché contraddice, almeno apparentemente, sembra anzi quasi un'inversione di tendenza alla diplomazia morbida e alla collusione che comunque in questi ultimi anni ha sempre contraddistinto proprio i rapporti tra Israele e l'Unione Europea. Una nuova direttiva emessa da Bruxelles impedisce a tutti e 28 gli Stati membri di cooperare con entità israeliane in Cisgiordania, Gerusalemme Est e alture del Golan, ovvero nessun rapporto con le colonie israeliane considerate illegali dal diritto internazionale. L'ordine, assunto lo scorso 30 giugno, avrà effetto dal 19 luglio il prossimo venerdì, almeno fino al 2020, e include ogni aspetto delle relazioni classiche tra i due paesi. Israele dovrà garantire che tutti i progetti di cooperazione, finanziamenti, cooperazione, borse di studio, premi di ricerca con l'Unione Europea si svolgano entro i confini del 67. Colonie bandite. Bruxelles ha subito spiegato che tale direttiva è conforme alla posizione di lungo periodo dell'Unione Europea, secondo la quale le colonie israeliane sono illegali secondo il diritto internazionale ed è conforme con il riconoscimento da parte dell'Unione Europea della sovranità israeliana sui territori occupati. Target dell'Unione Europea anche le alture del Golan siriano occupate da Israele nel 67 ma spesso dimenticate dalla comunità internazionale. Tanti sono i progetti e le collaborazioni con l'area, soprattutto di natura commerciale. Immediata la reazione furiosa di Tel Aviv, che denuncia la mossa dell'Unione Europea come controproducente e dannosa per la ripresa dei negoziati di pace. Il vice ministro degli esteri Ziv Helkin ha definito la decisione molto significativa e preoccupante, che non aiuta i tentativi del segretario di Stato USA Kerry di far ripartire il dialogo con i palestinesi, dimenticando forse gli annunci continui di nuovi progetti di costruzione ed espansione delle colonie israeliane in territorio palestinese, il vero ostacolo a qualsivoglia negoziato. Un funzionario israeliano rimasto anonimo ha parlato con il quotidiano israeliano Haaretz, definendo la mossa dell'Unione Europea un terremoto che stravolge senza precedenti gli accordi ufficiosi e non con l'Unione Europea, che assume così una politica formale e cieca. Ovvero Bruxelles si è fatto improvvisamente rispettoso del diritto internazionale e delle sue stesse dichiarazioni, a questo punto non ci va giù. E se il partito laburista plaude alla presa di posizione europea per attaccare l'esecutivo e accusarlo di danneggiare il paese, ponendolo sotto l'assedio del mondo, la tensione che si respira fra i corridoi del governo israeliano è palpabile. Funzionari dell'ufficio del primo ministro e del ministero degli interni parlano di grande ansia, un'ansia che minaccia di tramontarsi in un congelamento dei buonissimi rapporti con Bruxelles. E chiudiamo con un'ultima notizia, una notizia sulle iniziative, perché ci sarà un training dell'ISM in Val di Susa. La rete italiana ISM organizza delle giornate di formazione e di informazione per chi vuole unirsi all'attività dell'International Solidarity Movement in Palestina. Durante il training verrà spiegato cos'è e come funziona l'ISM. Saranno raccontate le esperienze di qualcuno che ha fatto attivismo in Palestina e verranno spiegati elementi di cultura palestinese. Inoltre sarà introdotto e praticato il metodo del consenso, verranno date informazioni legali, consigli pratici e si cercherà di chiarire ogni dubbio per i potenziali attivisti. Il prossimo training si terrà il 30 e 31 luglio durante il campeggio Notav a Benaus, Val Susa. Per informazioni consultare il sito www.reteitalianaism.it o inviare un'email a italianism@inventati.org. E questa per oggi era l'ultima notizia, quindi sono le 20:10 minuti primi. Radio Cufia vi saluta e vi dà appuntamento forse alla prossima settimana, o forse se ne andiamo in vacanza, questo ancora da vedere. Di sicuro c'è che rimangono i contatti della nostra radio, www.radiodefault.it per il nuovo sito super tecnologico e super aggiornato alle più recenti tecnologie del web 2.0. Per intervenire in diretta o fare domande o lanciare imprecazioni e maledizioni c'è il nostro contatto Skype che è radio.default o la nostra pagina Facebook che è Radio Default. Inoltre ricordiamo che questa trasmissione è gestita dall'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che ha un allegro sito con svariate traduzioni e archivio con le scorse iniziative che trovate su castelliperlapalestina.noblogs.org. Detto questo, noi alle 21:30 ci sarà la trasmissione di dei pallaccioni di Rise Up, mentre ricordiamo che la radio vi aspetta il 31 luglio qua alle ore 7 in via Franco Guidobaldi 56 a Genzano per l'aperitivo di chiusura della stagione radiofonica, perché ricordatevi che agosto è il mese peggiore in cui Radio Default può anche andare in default. Quindi noi vi salutiamo ancora e vi auguriamo buona libertà a tutti e a tutti in Palestina, ai Castelli a Roma, Romani e in ogni luogo. بتصف الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي